33esima traccia. Ah, signora, esclamò Emma, se gli altri bambini si assomigliano a quel che mi ricordo d'essere stata io stessa, riterrei che 5 volte la somma che ho sentito nominare come salario in tali occasioni sarebbe guadagnata a caro prezzo. Voi siete così nobile nelle vostre idee. E quando vi lascia Miss Fairfax? Presto, presto davvero, questo è il peggio. Tra 15 giorni, Mrs. Smallridge ha molta fretta. La mia povera madre non sa rassegnarcisi. Così cerco di distogliere la sua mente da quel pensiero e dico, su mamma, non ci pensiamo più. Dispiacerà a tutti i suoi amici di perderla e non saranno spiacenti il colonnello e Miss Campbell nell'apprendere che essa si è impiegata prima del loro ritorno? Sì, Jane è sicura che lo saranno, ma pure questa è una situazione tale che essa non può sentirsi giustificata a rifiutarla. Io sono rimasta sì stupita. Quanto ha detto la prima volta, che cosa aveva risposto a Mrs. Elton, e quando nel momento stesso Mrs. Elton è venuta a farmi le sue congratulazioni in proposito. È stato prima del tè. Aspettate, non poteva essere prima del tè, perché ci accingevamo a giocare a carte. Eppure era prima del tè, perché mi ricordo d'aver pensato... Oh no, ora mi ricordo, ci sono. Qualcosa è accaduto prima del tè, ma non questo. Mr. Elton venne chiamato fuori dalla stanza prima del tè. Il figlio del vecchio John Hardy voleva parlargli. Povero vecchio John, ho una gran considerazione per lui. Fu impiegato di mio padre per 27 anni e ora, povero vecchio, è allettato e soffre molto con la gotta alle articolazioni. Debbo andare a fargli visita quest'oggi e così Jane, sono sicura, se mai esce. È il figlio del povero John, è venuto a parlare con Mrs. Elton per chiedere un soccorso alla parrocchia. Lui sta bene di interessi, sapete, essendo servitore capo alla corona, stagliere, e ogni cosa del genere, ma pure non riesce a mantenere suo padre senza qualche aiuto. Sicché, quando tornò Mr. Elton, ci riferì ciò che gli aveva detto John lo stagliere, e allora si seppe della sedia di posta mandata a Randalls per prendere Mr. Frank Churchill e riportarlo a Richmond. Questo è quel che accadde prima del tè. Fu dopo il tè che Jane parlò con Mrs. Elton. Miss Bates non lasciò a Emma il tempo di dire quanto perfettamente nuova le riuscisse quella circostanza, ma siccome, senza supporre possibile che essa potesse ignorare alcuno dei particolari della partenza di Mr. Frank Churchill, proseguì dandoglieli tutti. La cosa non ebbe importanza. Ciò che Mr. Elton aveva appreso dallo stagliere in proposito e che era il compendio di quel che sapeva lo stagliere e di quel che sapeva la servitù a Randalls era che un messo era venuto da Richmond subito dopo il ritorno dei gitanti da Box Hill, il quale messaggero, tuttavia, venne tutt'altro che come una sorpresa. E che Mr. Churchill aveva scritto poche righe al nipote, che, in complesso, contenevano un discreto bollettino della salute di Mrs. Churchill, e solo lo esortavano a non ritardare il suo ritorno oltre alla mattina seguente di buon'ora. Ma che Mr. Frank Churchill, avendo deciso di andare direttamente a casa, senza aspettare affatto, e sembrando che il suo cavallo avesse preso un'infreddatura, Tom era stato mandato immediatamente per la sedia di posta e lo stagliere era rimasto fuori e l'aveva vista passare e il ragazzo andava di buon passo e guidava con molta fermezza. In tutto ciò non c'era niente che destasse stupore o interesse e l'attenzione di Emma ne fu fissata solo perché si combinava col tema che già le occupava la mente. La colpì il contrasto tra la posizione sociale di Mrs. Churchill e quella di Jane Fairfax. Una era tutto, l'altra nulla, e rimase a meditare sulla diversità del destino della donna, senza badare a dove fissava gli occhi, finché fu scossa da Miss Bates che diceva «Ah, vedo a cosa pensate, pensate al pianoforte, che cosa ne sarà?» Verissimo, la povera cara Jane ne parlava proprio ora. «Tu devi andartene», ha detto. «Tu e io dobbiamo separarci. Questo non è il posto tuo». «Ma rimanga pure», ha detto. «Ospitatelo finché non torna il colonnello Campbell. Ne parlerò a lui. Lui sistemerà le cose per me. Mi aiuterà a uscire da tutte le mie difficoltà. E fino ad oggi credo che essa non sappia se sia un regalo di lui o della figlia». Ora Emma fu obbligata a pensare al pianoforte e il ricordo di tutte le sue fantasiose e maligne congetture d'un tempo era così poco piacevole che presto si indusse a credere che la sua visita era durata abbastanza e ripetendo tutto quello che poteva rischiarsi a dire degli auguri che faceva di cuore, prese congedo. Le pensose meditazioni di Emma, mentre camminava verso casa, non furono interrotte, ma entrando nel salotto trovò coloro che dovevano riscuoterla. Mr. Knightley e Harriet erano arrivati durante la sua assenza e stavano seduti con suo padre. Mr. Knightley immediatamente si alzò e, con una maniera decisamente più grave del solito, disse: «Non volevo andarmene senza vedervi, ma non ho tempo e perciò devo andarmene subito. Vado a Londra a passare alcuni giorni con John ed Isabella. Avete nulla da mandare o da dire oltre agli affettuosi saluti che nessuno porta?» «Proprio nulla, ma non è un progetto improvviso?» «Sì, piuttosto. È un po' di tempo che ci stavo pensando». Emma era sicura che non l'aveva perdonata. Egli non sembrava lo stesso. Il tempo, tuttavia, essa pensò, gli avrebbe detto che dovevano essere amici di nuovo. Mentre egli stava in piedi, come sul punto d'andare, ma non andandosene, il padre cominciò le sue domande. «Ebbene, mia cara, e ti sei arrivata bene? E come hai trovato la mia degna amica e sua figlia? Suppongo che devono essere rimaste molto obbligate per la tua visita. La cara Emma è andata a far visita a Mrs. e a Miss Beth, come vi ho detto prima, Mr. Knightley. È sempre molto premurosa con loro». Emma si impolporò per questa ingiusta lode e, sorridendo e scotendo il capo, gesto che la diceva lunga, dette un'occhiata a Mr. Knightley. Parve come se vi fosse un'istantanea impressione in suo favore, come se gli occhi di lui apprendessero la verità da quelli di lei, e tutto quel che c'era stato di buono nei sentimenti di lei venisse immediatamente afferrato e apprezzato. Egli la guardò con intenso rispetto. Essa ne provò una profonda soddisfazione, e un momento dopo questa divenne ancor maggiore per via d'un piccolo moto di più che comune amicizia da parte di lui. Egli le prese la mano. Se fosse stata lei a far la prima mossa, non sapeva dirlo, avrebbe potuto forse piuttosto offrirla, ma egli le prese la mano, la premette e certo era sul punto di recarsela alle labbra allorché per una qualche fantasia d'un tratto la lasciò andare. Perché dovesse sentire un tale scrupolo? Perché dovesse cambiare idea quando la cosa era quasi fatta? Essa non poteva comprenderlo. Egli avrebbe mostrato più discernimento, essa pensava, se non si fosse fermato. L'intenzione, tuttavia, era indubitabile. E fosse che le sue maniere in genere avevano così poca galanteria, o che altro, essa pensò che nulla gli si addiceva tanto. In lui la cosa assumeva un carattere così semplice e pur così genitoso. Essa non sapeva riflettere a quel tentativo senza provare una grande soddisfazione. Significava un'amicizia perfetta. Egli gli lasciò subito dopo. In un momento se n'era andato. Si muoveva sempre con l'alacrità di uno spirito che non sapeva essere indeciso o dilatorio, ma ora pareva più subitaneo del solito nella sua scomparsa. Emma non poteva pentirsi di essere andata da Miss Bailey, ma considerava di essere congedata 10 minuti prima. Sarebbe stato un gran piacere parlare con Mr. Knightley del posto di Jane Fairfax. Né poteva essa sentir dispiacere che egli andasse a Brangwy Square, perché sapeva quanto avrebbero goduto della sua visita, ma avrebbe potuto aver luogo in un momento migliore, e se essa l'avesse saputo in anticipo, le sarebbe stato più gradito. Tuttavia si separarono ottimi amici. Essa non poteva ingannarsi sul significato dell'espressione di lui e della sua galanteria troncata a mezzo. Tutto mirava ad assicurarla che si era completamente riguadagnata la sua buona opinione. Seppe che si era trattenuto per una mezz'ora. Era un peccato che lei non fosse tornata prima. Nella speranza di distrarre i pensieri del padre dal fatto spiacevole dell'andata di Mr. Knightley a Londra ed una partenza così subitanea e a cavallo per giunta, tutte cose che essa sapeva avrebbero provocato una pessima impressione, Emma comunicò la notizia relativa a Jane Fairfax e non si ingannò contando sul suo effetto. Fornì un utilissimo correttivo. Lo interessò senza disturbarlo. Da un pezzo si era abituato all'idea che Jane Fairfax si collocasse come governante e ne poteva parlare a cuor leggero. Ma l'andata di Mr. Knightley a Londra era stata un colpo inatteso. «Sono davvero molto lieto, mia cara, di sentire che si è sistemata bene. Mrs. Elton è molto benevola e piacevole, e immagino che le sue conoscenze saranno come si deve. Spero che il posto sia asciutto e che abbiano riguardi per la sua salute. Dovrebbe essere una considerazione di primaria importanza, come son certo che fu sempre da parte mia nei riguardi della povera Miss Taylor. Sai, cara, essa sarà per questa nuova signora ciò che per noi fu Miss Taylor, e spero che, per un verso, essa s'avvantaggi su Miss Taylor e non venga indotta ad andarsene dopo che quella casa è stata la sua per tanto tempo». Il giorno seguente recò notizie da Richmond, che fecero passare tutto il resto in sott'ordine. Arrivò a Randalls un espresso per annunziare la morte di Mrs. Churchill. Sebbene il nipote non avesse avuto speciali ragioni per affrettare il suo ritorno per via di lei, essa non era vissuta più di 36 ore dopo che egli fu tornato. Un improvviso attacco di natura diversa da ogni cosa preannunciata dalle sue condizioni generali l'aveva portata via dopo una breve lotta. La grande Mrs. Churchill non era più. L'impressione fu quale deve essere in simili casi. Ognuno mostrò un certo grado di gravità e di dolore, tenerezza verso la defunta, sollecitudine per gli amici sopravvissuti. Poi, dopo un lasso di tempo ragionevole, curiosità di sapere dove sarebbe stata sepolta. Goldsmith ci dice che quando una donna leggiadra s'abbassa alla follia, non le rimane altro che morire. Ma quando s'abbassa a essere sgradevole, la stessa soluzione è da raccomandarsi come quella che purga la cattiva fama. Mrs. Churchill, dopo essere riuscita antipatica per 25 anni almeno, era adesso trattata con compassionevole indulgenza. Su un punto fu pienamente giustificata. Prima non era stato mai ammesso che fosse malata sul serio. La fine l'assolse da tutto il capriccio e da tutto l'egoismo di malattie immaginarie. Povera Mrs. Churchill! Certo aveva sofferto parecchio, più di quanto non si supponesse, e una pena continua non poteva non inasprire il carattere. Era un triste evento, un gran colpo, con tutti i suoi difetti. Che cosa avrebbe fatto Mr. Churchill senza di lei? La perdita per Mr. Churchill doveva essere davvero terribile. Mr. Churchill non se ne sarebbe riavuto mai. Perfino Mr. Weston scosse la testa e prese un'aria solenne e disse: «Povera donna, chi l'avrebbe immaginato?» E risolvette che il suo lutto sarebbe stato il più decoroso possibile. E sua moglie sospirava e faceva riflessioni morali sulle larghe balze del suo vestito con commiserazione e buonsenso, sincera e posata. Che effetto avrebbe avuto su Frank fu tra le prime cose che entrambi si domandarono. Fu anche un pensiero che Emma ebbe presto. Il carattere di Mrs. Churchill, il dolore di suo marito, la mente di Emma sorvolò su entrambe queste cose con riverenza e compassione. Indi, con animo sollevato, si indugiò a meditare sul contraccolpo che Frank avrebbe ricevuto dall'avvenimento. Che beneficio, che libertà ne avrebbe tratto. In un attimo vide tutto il bene che poteva venirne. Adesso una inclinazione per Harriet Smith non avrebbe incontrato ostacolo. Mr. Churchill, indipendente dalla moglie, non era temuto da nessuno. Un uomo alla mano che si lasciava guidare e che suo nipote avrebbe potuto persuadere a qualunque cosa. Tutto quel che restava a desiderare era che il nipote sentisse quell'inclinazione, poiché, con tutta la buona volontà che essa metteva in quella causa, Emma non poteva ritenersi certa che quell'attaccamento si fosse già formato. Harriet si comportò molto bene nella circostanza, con grande padronanza di sé. Quali che fossero le più brillanti speranze che potesse nutrire, non lasciò trapelar nulla. Emma fu lieta d'osservare in lei una tal prova di invigorimento di carattere e si trattenne da qualsiasi allusione che potesse mettere in pericolo il suo perseverare, sicché parlarono della morte di Mrs. Churchill con mutua reticenza. A Randalls ricevettero brevi lettere di Frank che comunicavano tutto ciò che era di immediata importanza circa il loro stato e i loro progetti. Mr. Churchill stava meglio di quanto avrebbe potuto attendersi e la loro prima tappa, appena partito il funerale per lo Yorkshire, sarebbe stata la casa di un vecchio amico a Windsor, a cui Mr. Churchill aveva promesso una visita da 10 anni. Per il momento non si poteva far niente per Harriet. Auguri per il futuro era quanto ancora poteva farsi da parte di Emma. Una preoccupazione più urgente era mostrar premura per Jane Fairfax, le cui prospettive si chiudevano mentre si aprivano quelle di Harriet, e il cui impegno ora non ammetteva ritardo da parte di alcuno in Highbury che volesse usarle cortesia, e in Emma era divenuto un desiderio di primaria importanza. Nessun rammarico era tanto forte in lei come quello per la sua passata freddezza, e la persona che essa aveva trascurata per tanti mesi era proprio quella su cui ora avrebbe voluto riversare ogni distinzione di riguardo o di simpatia. Desiderava esserle utile, desiderava far vedere che apprezzava la sua compagnia e attestarle rispetto e considerazione. Decise di persuaderla a passare una giornata a Hartfield. Fu mandato un messaggio a tal fine. L'invito venne rifiutato e con un messaggio verbale. Miss Fairfax non si sentiva abbastanza bene da scrivere. E quando Mr. Perry venne a fare una visita a Hartfield la stessa mattina, si seppe che essa era stata tanto indisposta da aver bisogno di una visita del medico, sebbene contro la sua volontà, e che soffriva di forti emicranie e di febbre nervosa a un grado da fargli mettere in dubbio la possibilità che essa potesse recarsi da Mrs. Smallridge alla data proposta. La sua salute sembrava per il momento del tutto alterata. L'appetito era svanito e sebbene non vi fossero sintomi allarmanti in modo assoluto, nulla riguardo all'affezione polmonare che formava la continua pressione della famiglia, Mr. Perry non si sentiva tranquillo per lei. egli credeva che si fosse sobbarcata a un compito superiore alle sue forze e che di ciò si fosse accorta lei stessa, sebbene non volesse confessarlo. Il suo spirito pareva sopraffatto. La sua casa presente, egli non poteva non osservare, era sfavorevole a un disturbo nervoso, sempre confinata com'era in una stanza. Egli avrebbe potuto desiderare che fosse diversamente, e la buona zia di Jane, sebbene fosse una vecchia amica di Mr. Perry, egli doveva riconoscere che non era la miglior compagna per una persona sofferente di un'indisposizione di quel tipo. Non potevano mettersi in dubbio la sua premura e le sue attenzioni. Di fatto, semmai, erano troppo grandi. Egli temeva molto che Miss Fairfax ne derivasse più male che bene. Emma ascoltava con la più calda simpatia. Di più in più s'addolorava per lei e si guardava attorno nel suo zelo di scoprire un modo per essere utile. Portarla lontano da sua zia, fosse pure per un'ora o due, farle cambiare aria e ambiente e darle una conversazione tranquilla e ragionevole, magari per un'ora o due, le avrebbe potuto far bene. E la mattina seguente scrisse di nuovo per dire, nel linguaggio più pieno di comprensione che poté trovare, che sarebbe passata con la carrozza a qualunque ora fosse piaciuta a Jane, ricordando che Mr. Perry si era espresso decisamente in favore d'un tale esercizio per la sua paziente. La risposta fu soltanto questa breve nota: saluti e ringraziamenti da parte di Miss Fairfax, ma non è in grado di fare alcun esercizio. Emma sentì che la sua missiva meritava una risposta migliore, ma era impossibile pigliarsela con parole la cui tremante e incerta scrittura dimostrava così palesemente indisposizione, e si mise solo a pensare quale sarebbe stato il modo migliore per combattere questa avversione a essere veduta o assistita. Perciò, nonostante la risposta, ordinò la carrozza e si recò da Mrs. Bates nella speranza che Jane potesse venire indotta a unirsi a lei, ma non servì. Miss Bates venne allo sportello della carrozza, tutta piena di gratitudine e d'accordo con lei nel modo più assoluto nel pensare che un po' d'aria avrebbe potuto giovare moltissimo. E ogni cosa che poteva farsi attraverso un messaggio fu tentato, ma tutto invano. Miss Bates fu obbligata a tornare senza esito. Jane non si lasciava assolutamente persuadere. La sola proposta d'uscire pareva peggiorare il suo stato. Emma desiderava di poterla vedere e di poter provare le sue arti di persuasione, ma ancor prima che potesse accennare a tal desiderio, Miss Bates fece intendere che aveva promesso alla nipote di non far entrare in casa a nessun costo Miss Woodhouse. Di fatto la verità era che la povera Jane non tollerava di vedere alcuno, assolutamente alcuno. A Mrs. Elton, invero, non si era potuto negare l'accesso, e Mrs. Cole aveva insistito tanto, e Mrs. Perry aveva detto tanto, ma, costoro eccettuate, Jane realmente si rifiutava di vedere alcuno. Emma non ci teneva a essere classificata con le Mrs. Elton, le Mrs. Perry e le Mrs. Cole, che volevano entrare a forza dappertutto, né si poteva sentire alcun diritto di preferenza a lei stessa, perciò si rassegnò e fece soltanto a Miss Bates ulteriori domande circa l'appetito e il vitto della nipote, a cui essa desiderava di poter contribuire. Su questo punto la povera Miss Bates era assai sconfortata e molto comunicativa. Jane non voleva toccar cibo. Mr. Perry raccomandava cibi nutrienti, ma qualunque cosa esse potessero procurare, e nessuno aveva mai visto dei vicini così buoni, riusciva sgradita. Emma, giunta a casa, chiamò subito la governante per esaminare le sue provviste e immediatamente fu inviata a Miss Bates della fecola d'amone di primissima qualità con un biglietto molto cordiale. Mezz'ora dopo la fecola tornava indietro con mille ringraziamenti da parte di Miss Bates, ma la cara Jane non si dava pace se non fosse rimandata indietro. Era una cosa che lei non poteva prendere e inoltre insisteva perché dicesse che lei non aveva assolutamente bisogno di nulla. Quando Emma poi seppe che Jane Fairfax era stata vista vagare per i campi, a qualche distanza da Highbury, il pomeriggio di quello stesso giorno in cui, con la scusa di non essere in grado di fare alcun esercizio, aveva rifiutato in modo perentorio di uscire con lei in carrozza, non ne rimase dubbio alcuno, mettendo insieme questo con gli altri indizi, che Jane era risoluta a non ricevere da lei alcuna cortesia. Ciò le dispiacque assai. Sentiva pena per uno stato che non sembrava che più pietoso a causa di questo genere di irritazione dello spirito, di incoerenza di azione ed insufficienza di poteri. E la mortificava vedere che le si faceva così poco credito di possedere buoni sentimenti o si faceva così poco conto della sua amicizia. Ma aveva il conforto di sapere che le sue intenzioni erano buone e di essere in grado di dire a se stessa che se Mr. Knightley avesse potuto conoscere tutti i suoi tentativi per assistere Jane Fairfax, avesse potuto magari scrutarle il cuore, non avrebbe trovato in questa circostanza nulla da rimproverarle. Una mattina, circa 10 giorni dopo la morte di Mrs. Churchill, Emma fu chiamata giù da una visita di Mr. Weston, che non poteva fermarsi 5 minuti e desiderava parlare con lei in persona. Egli le si fece incontro sulla porta del salotto e, chiestole appena come stava nel tono ordinario della sua voce, l'abbassò immediatamente per dire, senza essere udito da suo padre: «Potete venire a Randalls a qualunque ora stamattina? Fatelo se è possibile. Mrs. Weston desidera vedervi, deve assolutamente vedervi». «Sta poco bene? Non ho niente affatto, è solo un po' agitata. Avrebbe voluto ordinare la carrozza e venire da voi, ma essa deve vedervi da sola e questo, sapete», facendo un cenno verso il padre. «Potete venire? Ma certo, immediatamente se volete. È impossibile rifiutare ciò che chiedete in questo modo. Ma di che cosa può trattarsi? Davvero non sta male?» «Va sicuro, ma non fate più domande. Saprete tutto a suo tempo. La faccenda è più inesplicabile, ma zitti, zitti!» Indovinare che cosa potesse significare tutto ciò era impossibile perfino ad Emma. L'aria di lui pareva annunciare qualcosa di veramente importante. Ma siccome la sua amica stava bene, essa cercò di mantenersi tranquilla e dopo essersi intesa col padre che avrebbe fatto ora la sua passeggiata, lei e Mr. Weston furono in breve fuori dalla casa insieme, avviati a Randalls di buon passo. «Ebbene», disse Emma quando furono un bel po' fuori dal cancello del viale, «ebbene, Mr. Weston, fatemi sapere che cosa è successo». «No, no», rispose lui gravemente, «non chiedetelo a me. Ho promesso a mia moglie di lasciare che ve lo dicesse lei. Essa saprà prepararvi alla notizia meglio di quanto non possa fare io. Non siate impaziente, Emma. Non lo saprete che troppo presto». «Prepararmi alla notizia», esclamò Emma, rimanendo immobile dal terrore. «Mio Dio, Mr. Weston, datemela subito. È accaduto qualcosa a Brunswick Square, son sicura. Ditemi, vi esorto a dirmi subito di che si tratta». «No, davvero, vi sbagliate.